Sole, ah, ci sei. Ciucucciù. Popponio, ci sei. Ciucucciù. Antonetto, a me su. Pisellino. Avanti! Bello be, aci si, aci si bello be, ciucu ciucu ciucu ciu, Graziano! Avanti! Graziano! Ciucu ciucu ciucu ciu! Ebbe, mi senti! Ehi, mi aspetti, mi sono rimasto! 4-5 pisellini da sgranare, ho finito. Ah, stavi sgranando, stavi. I pisellini. Pensate, mangi pisello. E allora, piselli freschi, tennari, tennari. Ne hanno pigliato 3 chili. Dopo 4 ore che sbuccelli. Ti sento in mezzo a quel reme, ti intendo che. Adesso. Cosa hai detto? Adesso ti ho sentito poco fa in mezzo al QRM, ho detto, da quanto è basso. Perché si è rovesciato, era sul tavolo. Aspetta che hai già attacco tutto, la 27, che finisco questi 4 e li metto nel frigo. D'accordo, già sono sul 5 l'ascolto. Non c'è problema. Oh, sul 23, non c'è nessuno. Va bene, sul 23, d'accordo. Cinque minuti che finisco. Ok, va bene. Sto finendo di sgranare i pisellini. L'ha sgranato e messo. A Torello, ci sei. Popponio, ci sei. Popponio. Prego. A Torello. Popponio. Attori! Chi è avanti? Hai capito? Ma mi hai sentito almeno?